Cari amiche e cari amici, bentrovati, buonasera, Radio Alma, Brussellando, Maridì ai microfoni. Saluto Daniel M in regia. Che non, buonasera a tutti. Eccolo, arrivato. Eccolo lì il nostro Daniel M. Saluto Fiordaliso. Buonasera. Saluto il nostro Georges Laurent. Eccoci. Meglio noto come Giorgetto, quindi non vi meravigliate se di tanto in tanto Giorgetto. Giorgetto. Beh, è un diminutivo o un vezzeggiativo? È un vezzeggiativo. È un vezzeggiativo. Beh, allora. Scusa, allora. Che domande sono queste? Io non lo so. Ed eccoci qui con questa puntata, anche questa sera estremamente ricca, ricca di soprattutto di eventi, e invece abbiamo un solo ospite questa sera, un ospite abbastanza atteso, perché effettivamente siamo veramente contenti di averlo con noi. Sappiamo che lui è molto impegnato, perché il suo libro in effetti è fresco di stampa, è stato pubblicato, immaginate, meno di 2 mesi fa. Parliamo di Marco Malvaldi e La carta più alta, edito dalla Sellerio. Quindi salutiamo soprattutto gli amici della Sellerio, che ci hanno permesso di poter intervistare questa sera anche Marco Malvaldi. Come dicevamo, prima di passare la parola al nostro intervistato, che raggiungeremo come d'abitudine telefonicamente in Italia, ricordiamo qualche evento. Domani, tra l'altro, George, confermami, perché di tanto in tanto mi perdo, no? Soprattutto con le date. Ma domani è il primo giorno di primavera? E beh, il 21 marzo, eh? Confermi, perché c'è chi dice il 21, c'è chi dice il 23, di tanto in tanto sai che è il 21. No, è il 21 marzo, però insomma non c'hanno tutti i torti, ecco. Perché? È per il fenomeno della precessione degli equinozi. Spiegaci. Beh, insomma, c'è un problema, nel senso che, come tutti sapete, ogni 8 anni c'è un 29 febbraio. Esatto, e questo è questo è il caso. E però il problema è che questo 29 febbraio ci cerca di recuperare il tempo perduto alla Proust, però non è che ci riesce completamente. Quindi c'è un fenomeno comunque che fa in qualche modo retrodatare il calcolo del tempo rispetto all'equinozio. Ce l'aspetteremo dopo tot ore, minuti, secondi, e invece, siccome c'è una differenza di calcolo, quello arriva leggermente un po' prima. Ma quindi siamo più giovani? Come, siamo più? Giovani? Magari recuperiamo qualche giorno così accumulato nel tempo. Beh sì, se domani si decidesse che il giorno dura 48 ore, noi improvvisamente compieremo gli anni ogni 2 anni. Non è mica male. No, così puoi avere i regali solo no, io appena ho compiuto gli anni ho fatto tanti regali, no, io voglio festeggiare il compleanno una volta all'anno. Manca ancora il regalo di Giorgi di Fiordaliso. Ma no, me l'avete fatto. Sì, no, quello io era... Ho fatto tanti regali. Ci siamo capiti, ma noi pensavamo che fosse una house warming. Ma che... Pandro la cremagliera. Ma che... No, quello noi non siamo molto per la quale, non ci piace molto l'idea. La casa è già calda. O meglio, ci piace più l'idea di un invito bilaterale. Ecco il bilateral. Il multilaterale in quel contesto ci piace un po' meno. Ma bando alle chiacchiere. Allora, abbiamo detto che sono tanti gli eventi. Domani, primo giorno di primavera, quindi è qui a Bruxelles. Si sente, c'è il sole, c'è un po' freschetto, però effettivamente stiamo benissimo. E parliamo cominciamo con un evento che è veramente molto molto atteso, soprattutto perché capita tutte le primavere, quindi anche perché, come dice qualcuno, è il momento più appropriato per mostrare la prima minigonna, così dicono, lo dicono qui a Bruxelles, quindi scusate, devo capire in quale lingua parlare, l'FFSB, che non è l'FBI, ma è il Festival del Film Scientifico di Bruxelles, il quale aprirà le sue porte, anzi ha aperto le sue porte ieri, fino al 25 marzo 2012, poiché ha avuto tantissimo successo l'anno scorso, questo evento si ripete, e questa volta all'ULB, quindi al campus di Solbosch, in maniera tale che possa esserci veramente lo spazio necessario per accogliere tutti gli amanti di questo genere. Pensate, per entrare il prezzo veramente modico, 1,50 euro a seduta, 1 euro per tutti gli studenti, quindi per tutti coloro i quali amano questo tipo di genere, vi invitiamo veramente a partecipare all'FFSPB, giusto quando? Sì, dal 19 al 21 e... What we can say more? Yes, tutti i giorni dalle 17 alle 23:30, compresi il sabato e la domenica. Quindi vi ricordiamo, dal 19 al 25 marzo. E per quanti volessero avere più informazioni, c'è anche un sito internet. Ebbene sì, www.fffsb.org. FFSBXL come Bruxelles punto BE, Avenue Jean 44. BXL, questo me lo prendo, perché è un sito che mi interessa, perché mi interessa chissà cosa vuol dire film scientifico. Bah. Ma chi lo sa, per questo la curiosità insomma va stuzzicata e di più veramente non si può dire, mi dispiace. E invece andiamo su qualcosa di molto più interessante per qualcun altro, e cioè il l'Omnivore Food Festival. Aha. Questo per me. Certo, l'evento culinario che però è diverso agli altri, perché ci saranno ben 50 chef e pasticceri che sveleranno al pubblico i loro piatti, così, i piatti più importanti, e insomma anche le loro abilità manuali. È un luogo di incontro l'Omnivore Food Festival, anche questo si chiama OFF, è uno luogo di incontro, dicevo, di scambio, di riflessioni intorno alla cucina e sulla cucina, quindi è un melting pot che riunisce grandi nomi, nuove speranze culinarie, cioè nuovi artisti, se vogliamo così chiamarli, e anche consumatori. E dove si trova questo? Allora è a Bruxelles Expo, dove di solito si fanno questi grandi avvenimenti, e con una tariffa di 19 euro si può entrare dal 18, quindi già in piedi da 2 giorni, e fino a domani. Le ore di apertura saranno dalle 11 a mezzanotte. Invece un evento che apre proprio le porte con la primavera, quindi domani 21 marzo, è Stanley Kubrick, fotografo. E effettivamente questa è un'esposizione molto, una mostra molto particolare, perché mostra quelli che furono i primi passi di Stanley Kubrick, che resta uno dei cineasti faro dell'ultimo secolo. Kubrick in realtà vi descriverà attraverso questo percorso probabilmente una faccia dell'America che non è a tutti molto nota, scena non solo criminale ma anche probabilmente abbastanza violente, che esprimono quella che era la società di un giovanissimo studente appena uscito dall'università, quale era Stanley Kubrick nel 1945. A detta di alcuni, Kubrick si rivela un fotografo veramente di primo rango e riesce anche attraverso la fotografia a raccontare storie anche abbastanza consistenti. Tutto questo avverrà presso il Museo dell'Arte Ancien et Moderne a Rue de la Régence 3 a 1000 Bruxelles. L'entrata può variare, quindi da un'entrata gratuita fino a solo 8 euro, ne vale proprio la pena. Non è tutti i giorni l'apertura, ma solo il sabato e la domenica, quindi dalle 10 alle 17. Per quanti volessero saperne di più, ovviamente potete visitare il sito direttamente del museo, fineArts-museum.be, oppure telefonare allo 02-508-3211. Ripetiamo, quindi dal prossimo sabato, non è proprio esattamente domani, e fino al prossimo 1 luglio. E veramente vi suggeriamo e consigliamo di visitare Stanley Kubrick, fotografo, un dialogo con le collezioni. E sempre in tema di arte, passiamo alla Fabuloserie, che è uno dei luoghi che non si possono evitare, è uno dei luoghi principali del mondo dell'arte, l'art brut in francese, non so, in italiano potremmo dire l'arte sommaria, scusate, in questo arte momento, grezza. Grezza. Arte grezza? Daniele, lui è il francesista, quindi francesista. Grezza o allo stato brado, non so. Allo stato ebraico, ecco. No, vi preferisco grezza. Scusate. Hai detto allo stato ebraico, giusto. L'arte. Giorgetto. No, comunque sia, grezza o sommaria. No, questa era una vecchia battuta di un mio amico che però non intendeva fare una battuta, aveva fatto proprio un errore. A volte capita. Dell'arte grezza o sommaria. La sua storia è legata a quello di un uomo. È un allievo vecchio allievo della scuola delle belle arti di Parigi, e il suo nome è Alain Bourbonnais, che è morto nel 1988 ed era un giovane architetto che era ben in vista negli anni 60. Insomma, lui ha fatto una questione diversa, ha cercato di fare una produzione plastica personale nella quale si coniugavano insieme pittura, scultura e addirittura assemblaggio, quindi un'arte diversa da quella classica che conosciamo. E addirittura sulla spinta di Dubuffet, Bourbonnais decide di aprire l'atelier Jacob, che è galleria sotto il vento dell'arte grezza, nel 1982 a Parigi, che si definisce come luogo della scoperta dell'arte al di fuori delle regole. Ora,

Ciao. A presto, ciao. Grazie, ciao. Lì, brangolo. Mm. Brangolo. Sì, sì, sì, sì, lì, brangolo. Vecchietto, vecchietto, stiamo rimanendo comunque sul nell'area del divertimento. E infatti stasera stavo per dire che fondamentalmente mi avete fatto voi un bellissimo suggerimento di lettura, cioè ora ho la curiosità tutta al massimo e non vedo l'ora di mettere le mani su uno dei libri di Marco Malvaldi. Ovviamente io ti consiglio di cominciare dalla Briscola in 5. Ok, Briscola in 5, memorizzato. Avremo ancora un libro sulla libreria, non ti preoccupare. Sì, anche perché Dani M. dalla regia annuncia a tutti e tre in studio che sta leggendo l'ultimo, per cui non prendetemelo, Hai intendito? Va bene. Allora, io torno da... cioè praticamente si vede che adesso è una seconda puntata in cui parlerò di Terry Pratchett, perché ve ne ho già accennato in Tartarughe Divine, che mi è piaciuto particolarmente e che anche quello è un libro di un bel senso dell'umorismo, divertente, ma anche le sue profondità. Cioè, ovviamente sulla scia di questo libro ho immediatamente provato di leggerne un altro, siccome era divertente e bello, e ho letto uno che si chiama Morti e l'apprendista. E qua si tratta di un è un libro molto più leggero, diciamo, dal punto di vista di cioè delle questioni trattate, diciamo, però siamo comunque in tema. Si tratta dell'apprendista della morte, perché c'è un ragazzo che praticamente sembra avere quattro mani sinistre e nessuno lo prende come apprendista, finché alla notte arriva un tizio un po' strano e lo prende con sé, e lui diventa l'apprendista della morte, quindi va in giro con lui a, diciamo, mietere mietere vittime. Però, cioè, anche qua ci sono delle cose, diciamo, carine, cioè, prendendo un po' la situazione dal punto di vista della morte, un po' le cose si cambiano, cioè, per esempio la morte dice che io non sto facendo niente, cioè, non è mica colpa mia, cioè, la loro ora è arrivata, io devo andare, cioè, mica sono morti perché arrivo lui, io, sono morti perché ci sono le guerre, sono morte perché ci sono i disastri, sono morti perché sono vecchi, sono malati, ma mica sono io, cioè, alla fine che li sto sterminando. Morti, ovviamente, essendo e sono molto umano, non è che riesce molto bene a mietere, specialmente se si tratta di ragazze belle e giovani, e specialmente se si tratta di principesse belle e giovani, e con questo causa una rottura nella logica del mondo. E quindi da qui seguiamo un po' le avventure che condurranno alla fine a ristabilire l'ordine nel mondo in un modo o l'altro. Ecco, e quale sarebbe la logica del mondo? Beh, cioè, la logica del mondo è che c'è un tessuto della storia, e il tessuto della storia a volte vuole che la gente muoia, perché di conseguenza succedono delle cose che dovrebbero succedere, o che comunque fanno arrivare ad un futuro migliore. Cioè, per esempio, se la principessa fosse morta, allora i due regni limitrofi si sarebbero uniti e sarebbe iniziato un periodo di lunga prosperità e pace e tutto il resto. Quindi a volte anche cambiare un elemento in tutto questo farebbe cambiare il tutto. Però ci sono non voglio nemmeno raccontarvi tutto, perché dopo non ci sono più sorprese, non c'è più divertimento, no? Non vi posso raccontare tutto. Comunque c'è la realtà che cerca di imporsi, perché a seconda della realtà certe cose avrebbero dovuto succedere e tutta la realtà si comporta un po' come se fossero successe, e c'è invece un'altra realtà parallela che è nata di conseguenza a questo atto dell'apprendista, e che però sta lottando, diciamo, con questa quest'altra realtà. Sì. È un po' difficile da capire, se non dai un po' di elementi anche senza svelare. Un elemento supplementare è necessario. diciamo che tu avresti dovuto morire. Allora, sì. Tanto prima o poi succede, quindi. Tanto prima o poi ma succede. Non ci pensiamo. E poi, però, cioè, non so, l'apprendista ti salva nell'ultimo momento. Allora, però il mondo e la storia non ha previsto che tu non muoia. E quindi attorno a te, e proprio attorno a te largamente, tutti sono convinti che tu sei morto, quindi ti vedono, ti guardano un po' in modo vago e poi vanno avanti, perché cioè, non quadri più nella situazione, tu dovresti essere morto. Invece non sei morto. E invece non lo sei. Ho capito. È più o meno questo di cui si tratta. Bene, ma ha anche un risvolto, semplicemente un gioco così divertente sugli incroci anche del tempo di ciò che si aspetta, o è anche una velata critica sulla società? È una domanda. Beh, non veramente, cioè c'è un po' di diciamo, Terry Pratchett fondamentalmente secondo me è un ottimista, cioè anche lui è un grande giocatore, come anche Asimov è un grande giocatore, ma secondo me anche lui piuttosto del tipo ottimista, cioè lui ama ridere con la gente o comunque svelare ironicamente dei tratti degli umani, diciamo, in genere, cioè per esempio il fatto che le cose sconfortevoli non amiamo guardare o non amiamo osservare, e ovviamente fa un po' di cioè la storia abbonda di osservazioni sia dal punto di vista gioco della cosiddetta morte, e sia dal punto di vista degli umani, però non è mai, sai, una critica seria, è piuttosto un ridere con voi. Ho capito, quindi non c'è una critica della società, è semplicemente un gioco e vedere cosa succederebbe se. Però mi piaceva capire, o mi sarebbe piaciuto capire, quali erano le reazioni, cioè di fronte a qualcuno che doveva essere morto non c'era, se la reazione è quella di rimanere sul proprio pensiero, sulla propria credenza, invece di accettare la novità che questa persona in realtà morta non è. C'è il rifiuto, cioè praticamente la principessa alla fine ingaggia un annunciatore della principessa che deve ricordare a tutti ad ogni momento che la principessa sì che è viva, che generalmente la gente riesce a mantenere nella mente per 5 minuti neanche, soltanto per i secondi che la vede. Quindi, e in genere in tutto il libro c'è piuttosto questo tema del rinnego, cioè secondo, almeno nella situazione come è impostata da Terry Pratchett, la gente è capace di vedere la morte, soltanto non vuole vederla. Cioè, ovviamente in questo caso sarebbe un, cioè, non direi mica che è un personaggio né maschile né femminile, quindi è strano anche dire la morte, perché con la morte sarebbe femminile in italiano, che è molto strano, sì. Mentre nel libro si tratta comunque di un uomo morte. Non ci ho mai pensato. Il concetto è estremamente interessante, col quale secondo me possiamo anche... No, dobbiamo pensare perché la morte, Thanatos, invece diventa la morte, e perché è femminile. E perché voi siete italiani? Questa è una bella domanda, no, però ci penserò. Anche francesi, non ho la risposta. La mort, quindi ci devo pensare. Ci può stare, magari siamo latini, d'altronde siamo Radio Alma, Bussellando, vi ricordo, Marini e Microfoni. Cari amiche e cari amici, il Librangolo si conclude con questa domanda veramente puntigliosa, quindi pensateci, vi diamo dei compiti in questa settimana primaverile, in questa settimana di primavera, di annuncio della primavera. Ringrazio Dani M in regia. Grazie a voi. Ringrazio la nostra Fiordaliso per questo autentico, veramente, suggerimento di lettura. Ripetiamo nuovamente il titolo. Morti l'apprendista. Bene, mi sembra abbastanza promettente. Il nostro Giorgetto Eccomi. Non ti distrarre. Mare D vi saluta, vi ringrazia. Ringraziamo anche Marco Malvaldi, che è stato nostro ospite questa sera. Vi ricordiamo La Carta Più Alta, edito da Selleri Editore. Mi raccomando, leggetelo perché ne vale la pena. E se non avete ancora letto i precedenti, mi raccomando, cominciate dalla Briscola in 5, perché sono racconti straordinari. Iniziate a ridere dalla prima pagina per finire di ridere all'ultima pagina. Buona settimana a tutti. Ciao. E noi salutiamo Mare D.